preso male. Ho lavorato qualcosa, ho freddo. Per fare un po' di su di più mi sono fregato. Occhia, Virgilio, occhia. Ehi, Pupu, me volevi tappare? No. Ho tappato già, ma quando subi poi entri dentro, esci fuori, ti butti. Ecco, c'è vero. Io sono andato dentro, poi sono uscito fuori a prendere il materiale, poi sono entrato nuovo dentro, ho andato sull'altra e poi è sempre così. Finché mi ha fregato per tutto. Cioè, mi si è buttato veramente a terra, eh? Era una volta che mi vedo così a letto, se non vuoi sapere, da 3-4 anni, non di più. Prima pigliavo una cosa, facevo il bacino, non succedeva niente, questa volta invece mi ha fottito. E facendo il bacino così? E beh, adesso ho pigliato con le pastiglie, 5-6 ho preso, tra il tachipirina e altri analgesico per il mal di gola, per la tosse, per tutto, dolore di alle ossa, capito? KK. Cazzo, ti metto sotto la zale, se vuole dubbio. Quando uno non è abituato a uscire molto, quando uscivo in moto, c'era il pilota comandi questa roba qua già. Ma quando vado con la moto, a me mi frega subito. E così, un po' uscire a piedi. Fate la calduccia a casa, ci sono metti in macchina. Tu vedrai che dopo 2 anni me li senti. Subito. Certo, perché sei abituato al caldo, è ovvio che poi quando esci pigli un colpo, diciamo, l'aria va caldo al freddo e ti fulmina, è ovvio. Anche colpo di bella conca. Anche vero, anche quello è vero. E allora, così è. Io... Che ci può fare? Se non lo ottengo. Adesso domani spero di stare bene, come si deve. Allora così mi tranquillo. Tra l'altro non mi tocco più niente dalla tosse, nulla. Beh, me lo posso immaginare, quando c'è la tosse, come fai a dormire? E anzi, tu sei un tipo che non fumi, e sei anche fortunato per quello. Non so che non fumo io, ma già trombo però. Già trombo, ho detto, c'è bisogno di fumare, no? Mi ha spingere bisogna. Ma sai, allora, tu devi dire quanto vuoi, che cazzo, e te ne vasi e si appuscia. No, ci ho pensato, mi ha preso piano perché poi andare di là a farmi una bella sudata. Tanto quando sono entrato mi di pastiglia ci ho messo 30 euro me. Tra pastiglie e altra roba ho speso 30 euro. Quindi mi sai come la prossima volta mi succede, scendo giù con la fedora che ho con la cola. Buongiorno. Quando mi dice che sei venuto sì dal naso me ne sono venuto. Non sono toccato nulla. Io liscio solo, da quando sono andato sono liscio con questo baracchino. Non c'è niente attaccato, lo sai io. nessuno, tutti cadaveri, tutti cadaveri, siamo rimasti io e Antonello Compure. Ci metteranno un altro e fa la fine di tutto di me, tu di cosa ha fatto? La fine di che cosa? Una volta l'ho fatto scendere a cavallo, no, hai trovato il così su e ti è andato a fare il professore. L'importante è che qualcosa li mangia, se non ce la fanno tutte le mutande, i pantaloni, avanti al tu. Capo, mirano, non se ne capisci per nulla, no? Allora, sto fini, prima si voleva dimettere, adesso non si vuole più dimettere, adesso vuole entrare qua, adesso vuole entrare là, ma che vanno ad andare tutti con la tua carità, tutta la stessa minestra solo, vai. Aspetta, la bella imbicaribile, già dentro subito. Ci credo già. Ci credo, però tutto sommato te l'ha messa a posto, già va bene, dai. Non arriva. neanche con l'amplificatore attaccato. Non sai cos'è domenica, che lui sta uscendo con 5 watt, prima ci vuole 50, adesso sta uscendo con 5 watt, comunque detto, come ti avvicini ai presidi del suo paesello, riesci a tirarlo fuori meglio, KK. È confermato, Caprile, dice che lui si sente bene, io gli ho confermato se c'erano 5 watt e niente, è tutto qua, va, riprendi Caprile. Thank you. che purtroppo non si rispetta, c'è sempre quello che non rispetta, e succede il patatracchi. Riprendi lui. Sentirci, dai, poi il resto già va bene. Ma io vorrei salutare Domenico prima di perderlo, a più dopo se coincide Domenico, se no qua te lavora, chiappa. Oh, Domenico che mi ascolta, ci mancherebbe altro. Così è Domenico. È positivo, eh? Positivo, vedi, si è abbassato di parecchio, ma già è ottima. Allora, riprendi Gianni. Sì, riprendi con Domenico, vediamo un po' se ti ascolta ancora Domenico, e tu sei una zona molto più favorevole, dai. Ah, e cosa vuoi dire? Claudio, ai suoi impegni, sta entrando pochissimo, perché anche stanco, giustamente, non è più, è un'altra zona che trabacca, e così che, boh, non lo so. Ho sentito ieri proprio un attimo, giusto perché, forse perché era domenica, ma non lo so. No, stasera proprio non l'ho sentito. Primo bimbi è arrivato al secondo bimbi. Sì, io più o meno riesco a accompagnarlo fino alla meserio, so dai. E quel distributore dice meserio, so, ho messo solo confondendo. Infatti. Ma che magari, va bene. No, negativo, io sono sempre uguale. Perché mi senti più basso? Boh, aspetta un attimo, è un po' strano. E adesso com'è? Ed è fermo su Santiago 7. Fermo su Santiago 7, sì. Diciamo di sì, come modulazione, no, Santiago uguale, ma la radio era più forte. Non preoccupate, se sono qua già te rispondo, ciao, ma tranquillo. Attento Claudio. Spalieros. Attento re della montagna.